Soltanto in autunno tornai a Parigi. Giambattista e i suoi ufficiali partirono per Amburgo. Incominciava il governo di Giambattista sulle città anseatiche. Intanto egli voleva visitare la Danimarca e fare un'ispezione alle fortificazioni della costa danese che fronteggiano la Svezia. Nel mio viaggio di rimpatrio ebbi il tempo buono, gli scaldini con l'acqua calda divennero inutili. Uno stanco sole autunnale splendeva sulla nostra carrozza, splendeva sulle strade e sui campi nei quali in quest'anno non si era mietuto. Non vedemmo più carogne di cavalli e solo poche tombe. I monticelli di terra erano stati spianati dalla pioggia e il vento aveva spazzato via le croci delle sepolture. Si poteva dimenticare che si viaggiava per terre le quali erano state campi di battaglia. Si poteva dimenticare che qui giacevano sepolti migliaia di uomini, ma io non lo dimenticai. Non so dove il colonnello Moulin riuscì a scovare un vecchio numero del Moniteur. Apprendemmo che il fratello minore di Napoleone, quel discolo di Gerolamo che si era rimpinzato alle nozze di Giulia e che poi aveva dato di stomaco come una fontanella, era diventato re. L'imperatore aveva riunito alcuni dei principati conquistati in Germania e costituito il regno di Vestfalia. Gerolamo I, re di Vestfalia. Caterina del Württemberg adesso è imparentata con Giulia. Chissà se Gerolamo si ricorda ancora di quella Miss Patterson americana dalla quale è divorziato obbedendo all'ordine di Napoleone. Maria, il minore dei fratelli dell'imperatore, è diventato re. Adesso farà indigestione tutti i giorni se nessuno lo sorveglia, disse Maria. Il colonnello Moulin la guardò scandalizzato. Non era la prima volta che in sua presenza Maria si macchiava di lesa maestà. Io sporsi dal finestrino il vecchio numero del Moniteur che svolazzò via sui recenti campi di battaglia. Nella nostra nuova casa in Rue d'Anjou a Parigi, luglio 1809. Le campane della chiesa mi hanno destata. Il pulviscolo danzava nei raggi del sole che si insinuava tra le chiuse imposte delle finestre. Faceva molto caldo, benché fosse ancora piuttosto presto. Io scostai la coperta, intrecciai le mani sotto il capo e meditai. Le campane di Parigi. Forse oggi è il genetriaco di uno dei tanti re della famiglia Bonaparte. Napoleone fa regnare tutto il suo parentado. Giuseppe però non è più re di Napoli, ma di Spagna. E Giulia si trova da qualche mese in viaggio per Madrid. Proprio così. Da qualche mese. Gli spagnoli non vogliono saperne di Giuseppe. Hanno sparato in imboscate sui suoi soldati e infine, invece di re Giuseppe, gli insorti sono entrati vittoriosi a Madrid. Dopo ciò l'imperatore ha mandato in Spagna nuove truppe per liberare il popolo di Giuseppe da questi patrioti traviati. Murat invece regna con Carolina, a Napoli. Cioè, vi regna Carolina, perché Murat è anche maresciallo e perciò si trova sempre su qualche fronte di guerra. Ma Carolina non si cura granché del suo regno né di suo figlio e va sempre a far visita a Elisa, la maggiore delle sorelle di Napoleone che regna in Toscana. Ingrassa ogni anno di più e adesso ha una relazione amorosa con un musicista di corte, un certo Paganini. È stata Giulia a raccontarmi tutte queste cose. Alcune settimane prima di iniziare il suo viaggio per la Spagna, venne qui per farsi fare dei nuovi abiti da cerimonia, color rosso porpora naturalmente, secondo il desiderio di Giuseppe. Ah, le campane! Quale dei Bonaparte può celebrare oggi il suo genetriaco? Non il re Gerolamo e neppure Eugenio di Beauharnais, il viceré d'Italia. Il timido giovinetto di una volta, dopo il suo matrimonio, è mutato. Napoleone lo ha sposato ad una figlia del re di Baviera e adesso Eugenio ogni tanto apre bocca in società. Credo che adesso sia felice. Ancora, sempre le campane. Distintamente odo la voce profonda di Notre Dame. Quando ricorre il compleanno di Re Luigi? Ah, costui diventerà decrepito, nonostante le sue immaginarie malattie. Ha soltanto i piedi piatti, per il resto sta benissimo. Napoleone si è sempre curato molto di questo suo fratello. Lo ha ficcato nell'esercito per dargli un mestiere. Poi lo ha nominato suo aiutante, gli ha dato in moglie la figliastra e da ultimo lo ha messo sul trono d'Olanda. Come si chiamano i ribelli olandesi che fanno continui tentativi di sollevazione contro Luigi e contro i suoi soldati? Saboteur. Ah, ecco. Saboteur, sabotatori. Perché portano dei sabots. Degli zoccoli di legno come i nostri pescatori di Marsiglia. Odiano Luigi perché Napoleone lo ha posto sul trono d'Olanda e non sanno che Luigi non può soffrire suo fratello. Luigi chiude tutti e due gli occhi quando delle navi mercantili salpano segretamente dai porti per l'Inghilterra. In realtà il super sabotatore è proprio lui, Luigi stesso, super sabotatore per far dispetto a Napoleone. Almeno Napoleone avrebbe dovuto permettere che si scegliesse la sposa. Chi mi ha parlato ancora recentemente di Luigi? Ah, Paulette, naturalmente, l'unica dei Bonaparte che non ha fatto della politica e si occupa soltanto del suo piacere e dei suoi amanti. Per il compleanno di lei le campane non suonano, e neppure per quelle di Luciano. Luciano è sempre in esilio, eppure Napoleone gli ha offerto la corona di Spagna, naturalmente a condizione che lui divorziasse dalla sua Madame Juberton, dai capelli rossi. Luciano ha ricusato e ha tentato di andare in America con la sua famiglia. Ma per via la sua nave è stata fermata dagli inglesi. Adesso Luciano vive come straniero nemico in Inghilterra, continuamente vigilato, ma libero. Così ha scritto recentemente in una lettera che ha fatto pervenire di contrabbando in Francia a sua madre. Eppure è stato Luciano che allora aiutò Napoleone a diventare primo console per salvare la Repubblica francese. Luciano, l'idealista dagli occhi azzurri. Niente campane per Luciano. La porta si socchiuse. Me l'ero immaginato che le campane ti avrebbero svegliata. Ti faccio portare la prima colazione, disse Maria. Perché suonano le campane, Maria? E perché devono suonare? L'imperatore ha riportato una grande vittoria. Dove? Quando? Ci sono dei particolari nel giornale? Ah, ti mando la colazione e la tua lettrice, disse Maria. Ma poi rifletté. No. Prima la colazione e poi la signorina che legge per te. Maria se la ride perché, come le altre dame della corte, devo anch'io tenermi una ragazza di antica famiglia nobile decaduta che mi legge il Moniteur e i romanzi. Per conto mio preferirei leggere da sola, stando a letto. L'imperatore vuole che ci facciamo servire come se avessimo 80 anni e io ne ho appena 28. Yvette mi portò la cioccolata del mattino, aprì le finestre e a fiotti entrarono sole e profumo di rose. Eppure qui non ho che tre rosai. Il giardino è molto piccolo e la casa si trova nel bel mezzo della città. La maggior parte dei mobili di Moreau che vi ho trovato li ho regalati e ne ho comprati dei nuovi in bianco e oro, fastosi e molto cari. Nel salotto trovai un busto del precedente proprietario. Da prima non sapevo che cosa farne. L'amico Moreau è purtroppo in disgrazia, eppure non lo volevo buttare. Da ultimo misi questo busto nell'atrio, nella sala grande invece dovetti appendere un ritratto dell'imperatore. Sono riuscita a procurarmi una copia del ritratto dipinto da Adolphe Yvon che rappresenta Napoleone primo console. In questo ritratto il viso dell'immagine di Dio in terra è ancora magro e smunto come in quei giorni di Marsiglia. I capelli sono arruffati e lunghi come allora e gli occhi non sono vitrei né hanno foschi bagliori. Ispirati, ma pur pieni di senno, guardano lontano e la bocca è quella del Napoleone adolescente, il quale un giorno, appoggiato alla siepe di un giardino, diceva che vi sono degli uomini predestinati a fare la storia del mondo. Le campane. Quasi mi prende il mal di capo, quantunque io sia ormai avvezza a questo vittorioso scampanio. Yvette, domandai tra un sorso e l'altro di cioccolata, come e dove abbiamo vinto? A Wagram, principessa, il 4 e il 5 luglio. Mandami Mademoiselle e Oscar. Il bambino e la lettrice arrivarono insieme. Io mi accomodai i guanciali e attirai Oscar a me. Mademoiselle ci leggerà il Moniteur. Abbiamo vinto ancora. Così Oscar ed io apprendemmo che si è combattuta una grande battaglia a Wagram presso Vienna. Un'armata austriaca di 70.000 uomini è stata completamente annientata. Solo 1.500 francesi sono caduti e solo 3.000 sono feriti. Seguivano dei particolari, erano ricordati i nomi di quasi tutti i marescialli, mancava soltanto il nome di Giambattista, eppure io sapevo che egli si trovava con le sue truppe in Austria. Napoleone gli aveva affidato il comando di tutti i reggimenti sassoni del suo esercito. Purché non sia accaduto nulla di brutto, mi sfuggì detto involontariamente. Principessa, ho letto orora che si tratta di una grandissima vittoria, assicurò Mademoiselle. Non si dice nulla di papà sul giornale? Domandò Oscar. La signorina studiò ancora il comunicato. No, proprio nulla, confermò. A questo punto fu picchiato vivacemente alla porta. Madame La Flotte esibì la sua faccia mirabilmente dipinta. Principessa, Sua Eccellenza il Ministro Fouché chiede di essere ricevuto. Il ministro della polizia, Fouché, non mi ha mai fatto visita. Finalmente le campane della vittoria sono ammutolite. Forse non ho inteso bene quel che ha detto Madame La Flotte. Chi avete annunciato? Monseigneur Fouché, Sua Eccellenza il Ministro della Polizia, ripeté Madame La Flotte. Ella si sforzava di apparire impassibile, ma i suoi occhi tondi le uscivano quasi dalla testa per la grande agitazione. Oscar, va fuori, caro. Devo mettermi in ordine in fretta. Yvette, Yvette, Dio buono. Ecco Yvette, che era già lì col mio abito da mattino color lilla. Madame La Flotte, accompagnate Sua Eccellenza nel salottino. Ho già accompagnato Sua Eccellenza nel salottino. Mademoiselle, scendete e pregate Sua Eccellenza di pazientare un momento. Sto ancora facendo toeletta, ma mi sbrigo subito. Diteglielo. Oppure, no, non diteglielo. Passategli il monitor da leggere. Sul grazioso viso della Flotte guizzò un sorriso. Principessa, il ministro della polizia legge il monitor prima che sia stampato. Fa parte dei suoi doveri. Yvette, non abbiamo abbastanza tempo per mettere in ordine i miei capelli. Dammi quel velo rosa di mussola. Ecco, avvolgimelo come un turbante intorno alla testa. Scesi lentamente per la scala. Fouché, c'è chi lo ha battezzato la coscienza sporca di tutti. Si ha paura di lui perché sa troppe cose e sa tante cose perché è sempre stato presente dappertutto. Durante la rivoluzione lo chiamavano Fouché il sanguinario perché nessuno mai come questo deputato firmò tante sentenze di morte. Alla fine parve troppo sanguinario perfino a Robespierre. Ma prima ancora che Robespierre lo potesse liquidare, Fouché aveva già ordito la congiura contro di lui. Robespierre finì sulla ghigliottina e Fouché fu lasciato in disparte. Dapprima i direttori non poterono servirsi di lui, volevano mostrare agli stranieri che in fin dei conti la Francia non era una repubblica di assassini. Ma Fouché conosceva i segreti dei direttori ed essi non poterono liberarsene. Lo si incontrava ogni giorno nel salotto della Tayenne. Nessuno la sapeva più lunga di lui. Quando qualcuno propose che si facesse fuoco sul popolo affamato di Parigi per soffocare una rivolta, egli disse: Bernadotte non lo farà, ma questo piccolo disperato che corre sempre dietro a Giuseppina, lui sì. Come fu che il sanguinario Fouché ebbe di nuovo una carica? Il direttore Barras fu il primo a valersene. Lo mandò all'estero come agente segreto della Francia. Poco prima che i direttori venissero rovesciati, essi, si può dire, si aggrapparono a lui e Fouché venne nominato ministro della polizia. E Fouché, antico presidente del club dei Giacobini, si reca subito dai suoi antichi compagni dell'estrema sinistra. Nel club della Rue du Bac lo accoglie un'ovazione entusiastica. Fouché saluta freddamente. Chiudete il club, dice soltanto. Poi fa sgombrare la sala dai gendarmi e la chiude per sempre. La rivoluzione francese è ufficialmente terminata. Fouché ha le sue idee, tutte personali, circa le funzioni di un ministro di polizia. Uffici e ministeri, funzionari e ministri, ufficiali e borghesi, tutti egli sottomette alla sua vigilanza. Ciò non è poi tanto difficile quando si ha il modo di essere generosi e il ministro della polizia ha un fondo segreto col quale può pagare i suoi confidenti. Chi è pagato da lui? O piuttosto chi non è pagato da lui? I direttori allora, quando paventarono il colpo di Stato di Napoleone, si fidarono del loro ministro di polizia. Ma proprio il giorno in cui i soldati di Napoleone irruppero nel Consiglio dei 500 e in cui il direttorio fu rovesciato e Napoleone venne proclamato primo console, proprio quel giorno Fouché lo trascorse nel proprio letto. Era infreddato, si diceva. Nella notte che seguì a quel giorno, Giambattista ed io aspettavamo un ordine di arresto che non avrebbe recato la firma del primo console, bensì quella del suo ministro della polizia appena nominato, del signor Fouché. Che cosa vorrà da me? Mi domandai per l'ultima volta quando mi trovai davanti alla porta del salottino. Il massacratore di Lione mi venne in mente. Lo chiamavano tutti così allora, quando si parlava delle condanne a morte che Fouché faceva eseguire durante la rivoluzione a Lione. L'ho incontrato spesso ai ricevimenti delle Tuilerie. Fouché è un signore sempre accuratamente vestito, straordinariamente pallido, probabilmente anemico. Il comunicato di guerra non dice una parola di Giambattista. Mi immagino bene che cosa può essere accaduto, ma ho la coscienza pulita, Monsieur Fouché, ho soltanto paura, tanta paura. Quando entrai, egli si levò di scatto. Vengo a congratularmi con voi, principessa. Abbiamo riportato una grande vittoria e ho letto che il principe di Pontecorvo, con 7 o 8 mila soldati, ha spezzato la resistenza di 40 mila uomini e ha conquistato Wagram. Sì, ma tutto questo non c'è nel giornale, balbettai e lo pregai di sedere di nuovo. Ho detto soltanto che l'ho letto, cara principessa, ma non ho detto dove. No, nel giornale non c'è. Ma è in un ordine del giorno che vostro marito ha indirizzato alle truppe sassoni per esaltarne il valore. Fece una pausa. Prese una piccola bomboniera di porcellana di Dresda da un tavolino che stava tra noi due e la osservò con interesse. Ma ho anche letto un'altra cosa, la copia di una lettera di Sua Maestà al principe di Pontecorvo. In essa l'imperatore esprime la sua netta disapprovazione per l'ordine del giorno del principe di Pontecorvo. Sua Maestà afferma perfino che quest'ordine del giorno conterrebbe parecchie inesattezze. Per esempio, l'imperatore dice che Oudinot ha preso lui Wagram e che perciò è impossibile che l'abbia conquistata per primo il principe di Pontecorvo. Dice inoltre che i sassoni al comando di vostro marito non hanno assolutamente potuto distinguersi poiché non hanno sparato neppure un colpo. D'altra parte, Sua Maestà ha sentito il bisogno di far sapere al principe di Pontecorvo che egli in questa campagna non si è affatto segnalato. Così? Così ha scritto l'imperatore Giambattista? Mormorai io smarrita. Fouché rimise cautamente a posto la bomboniera. A questo riguardo non sussiste alcun dubbio, perché alla copia della lettera dell'imperatore era unita una nota per me. Ho avuto l'ordine, e mi guardò fisso ma benevolmente, in faccia, ho avuto l'ordine di sorvegliare la persona del principe di Pontecorvo e la sua corrispondenza. Oh, sarà difficile, signor ministro. Mio marito si trova con le sue truppe in Austria. Non è esatto, principessa. Il principe di Pontecorvo sta per arrivare a Parigi da un momento all'altro. Dopo questo carteggio con Sua Maestà ha lasciato l'alto comando delle sue truppe e ha chiesto un congedo per motivi di salute. Questo congedo gli è stato concesso a tempo indeterminato. Mi congratulo con voi, principessa. Da molto tempo non avete veduto vostro marito. Ora è imminente un vostro incontro con lui. Perché recitargli la commedia? Tutti cercano di far questo e lui c'è avvezzo. Posso riflettere un momento? Un sorriso guizzò sul suo viso. Su che cosa, principessa? Io mi premetti la mano sulla fronte. Su tutte queste cose, io non sono molto sagace. Non mi contraddite, vi prego. Devo riflettere su ciò che è avvenuto. Voi dite che mio marito scrive che le sue truppe sassoni si sarebbero distinte, non è vero? Come una falange di bronzo si sono comportate sul campo, così almeno scrive il principe nel suo ordine del giorno. E perché l'imperatore si stizzisce contro le truppe di mio marito? In una circolare riservata a tutti i marescialli, l'imperatore comunica: Sua Maestà l'imperatore comanda personalmente le sue truppe e a lui solo spetta di elogiare le singole unità. Inoltre, l'esercito deve le sue vittorie ai soldati francesi e non a quelli stranieri. Un diverso criterio non sarebbe conciliabile con la nostra politica né con il nostro onore. La circolare dell'imperatore ai marescialli è pressappoco in questi termini. Ma qualcuno mi ha detto che mio marito si sarebbe lagnato con l'imperatore perché questi gli affida soltanto dei reggimenti stranieri. Giambattista ha fatto tutto il possibile per comandare soltanto delle truppe francesi e per liberarsi di quei poveri sassoni. Perché, poveri sassoni? Il re di Sassonia manda i suoi giovani a combattere delle battaglie che non li riguardano. Perché poi i sassoni si sono battuti a Wagram? Sono alleati della Francia, principessa. Ma non vedete voi stessa quanto grande sia stata la saggezza dell'imperatore nel far comandare i reggimenti sassoni dal principe di Pontecorvo? Come fusi nel bronzo sono stati sul campo questi sassoni agli ordini di vostro marito, principessa. Ma l'imperatore dice che non è vero? No, l'imperatore dice semplicemente che lui solo ha il diritto di elogiare le unità dell'esercito. E che è impolitico e inconciliabile col nostro onore nazionale esaltare truppe straniere. Voi non mi avete ascoltato con attenzione, principessa. Adesso dovrò far mettere in ordine la sua stanza perché lui torna a casa. Mi venne in mente e mi alzai. Perdonatemi, eccellenza, voglio far preparare tutto per ricevere Giambattista e vi ringrazio della vostra visita, ma non so veramente. Egli era in piedi davanti a me, di media statura, stretto di torace e un po' curvo in avanti. Il suo lungo naso da bracco, con le pinne un po' rigonfie, sembrava che fiutasse qualche cosa. Che cosa non sapete veramente, cara principessa? Il reale motivo della vostra visita? Volete dirmi che terrete sotto la vostra sorveglianza mio marito? Questo non ve lo posso impedire e mi è anche affatto indifferente, ma per quale ragione siete venuto a dirlo a me? Non potete proprio indovinarlo, illustre principessa? Un pensiero mi balenò per la mente. Mi accorsi che arrossivo per lo sdegno. Ora la rabbia mi soffoca, pensai. Ma la rabbia in realtà non soffoca nessuno, al contrario, e gli risposi chiaro e tondo: Signor ministro, se avete potuto pensare che io vi aiuti a spiare mio marito, avete sbagliato e parecchio. Dopo ciò avrei voluto con un gran gesto alzare la mano e gridare: Fuori di qui! Ma purtroppo non sono capace di tanto. Se avessi pensato questo avrei sbagliato, disse lui calmo. Forse l'ho pensato e forse no, principessa, in questo momento neppure io lo so. Oh, perché tutto questo? Mi domandai. Perché? Se l'imperatore ci vuole esiliare, ci esilierà. Se vorrà deferire Giambattista ad un tribunale di guerra, lo deferirà ad un tribunale di guerra. Se cercherà dei motivi per far questo, il suo ministro della polizia li troverà. Noi non viviamo più in uno stato costituzionale. Quasi tutte le signore hanno dei conti non pagati presso le sarte, disse Fouché sottovoce. Io scattai. Adesso siete andato troppo oltre, monsieur. La nostra amatissima imperatrice, per esempio, ha sempre dei conti aperti con le Roi. Naturalmente io sono sempre pronto ai servizi di sua maestà. Ma che cosa vuol dire forse che lui paga l'imperatrice per servizi di delazione? Ma è una follia, pensai. E nello stesso tempo compresi senz'altro che era vero. Talvolta non è senza interesse tener dietro al carteggio di un uomo. Si hanno delle sorprese. Sorprese che non interessano me, ma forse una moglie. Non incomodatevi, dissi nauseata. Scoprirete che Giambattista da alcuni anni scrive a Madame Récamier e riceve da lei delle lettere affettuose. Madame Récamier è una signora intelligente e molto colta, e per un uomo come il mio Giambattista è un grande piacere tenere corrispondenza con lei. Eppure darei molto per poter leggere le lettere di amore spirituale che Giambattista scrive alla Récamier, pensai. E adesso dovete proprio scusarmi, devo mettere in ordine la camera di Giambattista. Solo un momento, principessa. Sarete così gentile da fare da parte mia una comunicazione al principe? Prego, e di che cosa si tratta? L'imperatore si trova al castello di Schönbrunn, a Vienna. Non mi è perciò possibile informarlo in tempo che gli inglesi hanno raccolto delle truppe e si propongono di sbarcare a Dunkerque e ad Anversa. Dalla costa della Manica si propongono di marciare direttamente su Parigi, perciò io, sotto la mia responsabilità e per provvedere alla sicurezza del paese, chiamerò alle armi la Guardia Nazionale. Io prego il maresciallo Bernadotte di assumere, subito dopo il suo arrivo, il comando in capo di queste truppe mobilitate e di difendere la Francia. Questo è tutto, madame. Il mio cuore cessò di battere. Cercai di rappresentarmi bene ogni cosa. Sbarco degli inglesi, attacco degli inglesi, marcia su Parigi. Tutti i marescialli sono al fronte, all'estero. Nel paese non abbiamo più, si può dire, delle vere truppe. E l'Inghilterra attacca la Francia. Fouché giocherellava di nuovo con la piccola bomboniera. L'imperatore non ha fiducia in lui e voi volete dargli il comando in capo della Guardia Nazionale che dovrebbe difendere le nostre frontiere? Io non posso assumere il comando, principessa. Io sono un antico insegnante di matematica e non sono mai stato sergente. Il cielo mi manda a Parigi un maresciallo. Sia ringraziato il cielo. Volete incaricarvi di questa comunicazione al principe? Io annuii soltanto. Lo accompagnai alla porta. E improvvisamente mi venne un'idea. Fouché è tanto furbo, forse tutto questo non è che una trappola. Non so se mio marito assumerà il comando in capo quando ciò dovesse farsi all'insaputa dell'imperatore, dissi. Fouché mi era accanto, vicinissimo. Deve soffrire di stomaco, il suo fiato è graveolente. State tranquilla, madame, se si tratta di difendere le frontiere della Francia, il maresciallo Bernadotte assumerà il comando in capo. E aggiunse con voce appena percettibile, fino a che sarà maresciallo di Francia. Poi mi baciò la mano e se ne andò. Quella sera stessa la carrozza di Giambattista arrivò davanti alla nostra casa. Giambattista era accompagnato dal solo Fernando. Non aveva condotto con sé neppure i suoi aiutanti personali. Due giorni appresso ripartì e proprio per la costa della Manica. Villa Lagrange, presso Parigi, autunno 1809. Ora dispongo di pochissimo tempo per scrivere qualche cosa. Passo tutte le giornate con Giambattista e cerco di tenerlo di buon umore. Quella volta, in luglio, Fouché non aveva esagerato il pericolo. Gli inglesi sono realmente sbarcati sulla costa della Manica e hanno conquistato Flessinga. In capo a pochi giorni, Giambattista ha compiuto il miracolo di fortificare così saldamente Dunkerque e Anversa che non soltanto tutti gli attacchi inglesi sono stati respinti, ma sono caduti in mano sua anche un gran numero di soldati inglesi e un grosso bottino di guerra. Con fatica e disagio, gli inglesi hanno raggiunto di nuovo presso Dunkerque le loro navi e sono fuggiti. Queste notizie, giunte al castello di Schönbrunn, hanno messo in spaventosa agitazione l'imperatore. In sua assenza, un ministro aveva osato mobilitare la Guardia Nazionale e nominare comandante in capo proprio quel maresciallo che era sottoposto alla vigilanza della polizia. Ma nello stesso tempo Napoleone ha dovuto riconoscere pubblicamente che Fouché, con l'aiuto di Giambattista, ha salvato la Francia. Senza l'inattesa mobilitazione e senza l'energia di un maresciallo che ha saputo tramutare in un esercito questi inesperti figli di contadini, i quali da oltre 10 anni non avevano più tenuto in mano un fucile, la Francia sarebbe stata perduta. Perciò Fouché ha avuto un brevetto di nobiltà e adesso si chiama Duca d'Otranto. Il nome ha un suono romantico, pressappoco come quello di Pontecorvo. E Fouché non ha naturalmente visto il suo ducato come noi non abbiamo visto il nostro principato in Italia. L'imperatore non ha voluto che altri disegnassero lo stemma di Fouché, lo ha ideato lui personalmente, una colonna d'oro intorno alla quale si attorciglia una serpe. La colonna d'oro ha suscitato il buon umore di tutti. L'antico presidente del club dei Giacobini, che una volta faceva confiscare come antirepubblicani tutti gli altrui patrimoni dei quali poteva avere notizia, è oggi uno dei più ricchi uomini di Francia. Uno dei suoi migliori amici e l'antico amante di Teresa Tallien, il fornitore d'armi Ouvrard. Ouvrard è anche banchiere e copre gli affari di borsa di Fouché. Del serpente che si avvolge intorno alla colonna non si parla. Napoleone ha un debito di riconoscenza verso il suo ministro di polizia e ha colto anche l'occasione per dirgli che cosa pensa di lui. Naturalmente, tutti si aspettavano che l'imperatore ricompensasse anche Giambattista e gli affidasse un nuovo comando in capo, ma l'imperatore non gli ha neppure scritto una parola di ringraziamento. E perché poi? Io non difendo la Francia per far piacere a lui, ha detto Giambattista quando gli ho parlato di questo. Noi abitiamo adesso Lagrange, una bellissima grande villa nelle vicinanze di Parigi che Giambattista ha comprata. La casa di Rue d'Anjou è odiosa. Sebbene io abbia fatto tappezzare le stanze con bei parati nuovi, lui trova che in tutti gli angoli stiano in agguato delle ombre. Approvi che io abbia fatto mettere nell'atrio il busto di Moreau? Gli ho domandato cautamente quando Giambattista entrò nella casa per la prima volta. Giambattista mi guardò. Oh, non potevi trovare un posto più adatto. Così almeno chiunque venga a farci visita saprà subito, appena entrato, che noi non dimentichiamo di essere nella casa che fu già di Moreau. È curioso che tu riesca sempre a indovinare i miei pensieri inespressi, ragazzina. Come curioso? Io ti voglio bene, dissi. Io mi godo ciascuno di questi giorni nei quali Giambattista è in disgrazia e che noi possiamo trascorrere tranquillamente insieme in campagna. Da Giulia sono poi informata di tutto quello che succede nel cosiddetto gran mondo. Lei è ritornata con Giuseppe. L'imperatore ha mandato in Spagna Junot con un esercito per rendere finalmente possibile a Giuseppe l'ingresso a Madrid come re. Ma l'esercito di Junot è stato quasi distrutto dai patrioti spagnoli, aiutati dagli inglesi. Ieri Abbiamo avuto una visita inaspettata, il conte Talleyrand, principe di Benevento. Il principe ha detto ridendo che si trattava di una visita di buon vicinato perché il ducato di Benevento si trova nelle vicinanze di Pontecorvo. Talleyrand e noi abbiamo avuto contemporaneamente il dono dei nostri piccoli principati. Insieme con Fouché, Talleyrand è l'uomo più potente tra quanti servono Napoleone. Eppure l'anno scorso Talleyrand ha dato le dimissioni dalla sua carica di ministro degli esteri. Dicono che abbia restituito il portafogli dopo una scenata violenta con Napoleone nella quale lo ammonì di non fare nuove guerre. Sembra peraltro che Napoleone non possa rinunciare ai suoi servigi diplomatici e così lo ha nominato grande dignitario dell'impero e vuole che anche in avvenire Talleyrand sia consultato in tutti i casi nei quali si richiedono importanti decisioni del ministro degli esteri. A me questo grande dignitario zoppo è simpatico, è molto spiritoso e piacevole, non parla mai con le signore di guerre e di politica e non riesco proprio ad immaginarmi che una volta sia stato vescovo. Eppure lo è stato davvero ed è anche stato il primo vescovo che ha prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica. Ma poiché discendeva da una casata d'antica nobiltà, questo gesto non gli giovò molto e senza dubbio sarebbe stato arrestato da Robespierre se non fosse scappato al momento opportuno in America. 2 anni fa Napoleone ha costretto il Papa a sciogliere Talleyrand dagli ordini ecclesiastici. Napoleone voleva che il suo ministro degli esteri si sposasse invece di cambiare un amante dopo l'altra. Napoleone è diventato molto esigente in fatto di costumi, specialmente per quello che riguarda la sua corte. Ma Talleyrand trovava sempre delle scuse e diceva di non poter assolutamente sposarsi. Doveva rimanere scapolo. E a lungo andare le scuse non hanno più valso e Talleyrand fu costretto a sposare l'ultima delle sue amanti. Ma appena sposato non si fece più vedere con lei. Da un ex vescovo non mi sarei aspettato un simile contegno. Comunque, quest'uomo potente ci ha fatto visita ieri e ha domandato: «Come va, caro principe, che da tanto tempo non vi ho più visto a Parigi?» Al che Giambattista ha cortesemente risposto: «Questo, eccellenza, non vi deve fare meraviglia. Avrete probabilmente sentito dire che ho chiesto un congedo per motivi di salute». Talleyrand annuì serio e si informò se Giambattista si fosse ormai un pochino rimesso. E siccome Giambattista va ogni giorno per ore e ore a cavallo ed è tutto abbronzato, dovete riconoscere che adesso la sua salute è davvero un po' migliorata. «Avete udito qualche cosa di interessante dall'estero in questi ultimi tempi?» domandò poi Talleyrand. Una domanda piuttosto stupida. In primo luogo, Talleyrand sa meglio di chiunque altro quel che succede all'estero. E in secondo luogo, domandatelo a Fouché. Lui legge tutte le lettere che io ricevo anche prima di me, disse calmo Giambattista. Comunque no, non ho saputo dall'estero nulla di notevole. Non avete neppure ricevuto i saluti dei vostri amici svedesi? Su questa domanda non trovai nulla da ridire. Che Giambattista Lubecca sia stato molto generoso con alcuni ufficiali svedesi e li abbia rimandati in patria invece di tenerli prigionieri è cosa universalmente nota. Ed è naturale che ogni tanto lui riceva qualche lettera da quella gente dagli impronunciabili nomi. Tuttavia sembrava che la domanda avesse una certa importanza perché Giambattista alzò la testa e cercò di cogliere lo sguardo di Talleyrand. Poi annuì. «Sì, certo, saluti senza alcun significato particolare. Fouché non vi ha fatto vedere la lettera?» «Oh, l'antico insegnante di matematica è molto zelante e naturalmente mi ha fatto vedere la lettera, ma io non direi che si tratti di saluti senza alcun significato. Certo, non sono per ora molto promettenti. Gli svedesi hanno deposto fin dal marzo scorso il loro maniaco re Gustavo e proclamato re suo zio Carlo XIII». Osservò Giambattista. La cosa incominciava a interessarmi. Davvero? Quel Gustavo che pretendeva di essere prescelto dal cielo per vincere l'imperatore è stato deposto? Non ebbi risposta. Talleyrand e Giambattista continuavano a guardarsi negli occhi. Il silenzio mi parve opprimente. Credete, eccellenza, che questo Gustavo sia proprio malato di mente? Domandai per rompere il silenzio. «È difficile poterlo giudicare da qui», mi disse Talleyrand sorridendo, «ma sono convinto che suo zio debba avere una parte importante nell'avvenire della Svezia. Questo zio è già indebolito dagli anni e malaticcio ed è anche senza figli, se non sbaglio. Non è vero, principe? Ha adottato e destinato a succedergli un suo giovane parente, il principe Cristiano Augusto di Holstein-Sonderburg o Augustenburg. Come pronunciate bene questi nomi stranieri? Disse Talleyrand ammirato. Ho vissuto abbastanza a lungo nella Germania del Nord e là ci si abitua a questi nomi, rispose Giambattista. Non vi siete interessato della lingua svedese, amico caro? No. Non ho avuto finora alcun motivo per far questo. Stupisco. Lo scorso anno, quando vi trovavate con le vostre truppe in Danimarca, l'imperatore vi ha lasciato arbitro di attaccare eventualmente la Svezia e voi non avete fatto nulla. Perché poi? È già molto che volevo domandarvelo. Oh, voi stesso dite che l'imperatore si era rimesso al mio parere? Allora egli voleva favorire lo zar nella conquista della Finlandia? Il nostro aiuto militare non era necessario. Bastava, come giustamente avete osservato, stare a guardare dalla Danimarca la Svezia. E la vista? Era una bella vista quella della Svezia, amico caro? Giambattista alzò le spalle. Nelle notti limpide si vedono dalla Danimarca le luci della costa svedese, ma le notti erano quasi sempre nebbiose. Poche volte ho potuto vedere quei lumi. Talleyrand si curvò in avanti e col pomo d'oro del bastone che porta sempre con sé, per causa della sua gamba anchilosata, si toccò lievemente il mento. Perché prendesse gusto a questo discorso non riesco a spiegarmelo. Molte luci in Svezia, caro amico? Giambattista piegò la testa e un po' da una parte e sorrise. Sembrava divertirsi anche lui. No, poche luci. La Svezia è un paese povero e una grande potenza di ieri l'altro. Forse anche una grande potenza di domani. Giambattista crollò il capo. Non nel campo politico, ma forse, altrimenti, non lo so. Ogni popolo ha delle possibilità, sol che voglia dimenticare il suo grande passato. Talleyrand sorrise. Anche ogni uomo ha delle possibilità, purché dimentichi il suo piccolo passato. Ne conosciamo degli esempi, caro principe. Per voi è facile, voi uscite da una famiglia nobile e nella vostra gioventù avete potuto studiare. È facile, molto più facile che non per gli esempi ai quali alludete. La frecciata era buona, Talleyrand di colpo cessò di sorridere. «Ho meritato questa lezione, principe», disse tranquillamente. «L'antico vescovo prega l'antico sergente di scusarlo». Aspettava un sorriso da Giambattista? È probabile, ma Giambattista sedeva, chinato in avanti, col mento appoggiato alla mano e non alzò gli occhi. «Sono stanco, eccellenza. Stanco delle vostre domande, stanco della sorveglianza del ministro della polizia, stanco di questa sfiducia, stanco, principe di Benevento, molto stanco». Talleyrand si alzò subito. «Allora mi affretto a rivolgervi la mia preghiera e me ne andrò senz'altro». Giambattista si era alzato anche lui. «Una preghiera? Non saprei in che cosa un maresciallo caduto in disgrazia possa servire il ministro degli esteri? Vedete, caro Pontecorvo, si tratta della Svezia. È un caso curioso che proprio stessimo parlando della Svezia. Ho saputo ieri che il Consiglio dello Stato svedese ha inviato a Parigi alcuni signori con l'incarico di trattare la ripresa delle relazioni diplomatiche tra il loro e il nostro paese. In fin dei conti gli svedesi hanno esiliato quel giovane senza dubbio mentecatto loro re e messo in trono il suo vecchio e senza dubbio rimbambito zio per riannodare queste buone relazioni. Questi signori, non so se i loro nomi vi dicano nulla, sono un certo von Essen e un conte Peyron. A Parigi hanno subito domandato di voi». Una profonda ruga si delineò alla radice del naso di Giambattista. «Questi nomi non mi dicono nulla e neppure so perché questi signori domandino di me». «I giovani ufficiali con cui allora alla presa di Lubecca avete cenato parlano molto di voi. Vi si reputa amico del... ecco... dell'estremo nord, caro Pontecorvo, e questi signori, che sono venuti come negoziatori a Parigi, sperano che voi possiate mettere presso l'imperatore una buona parola per il loro paese». «Vedete? A Stoccolma sono male informati», mormorò Giambattista. «Vi vorrei pregare di ricevere questi signori», disse Talleyrand con indifferenza. Giambattista aggrottò ancora di più le sopracciglia. «A che pro? Posso essere loro d'aiuto presso l'imperatore? No? Oppure volete far credere all'imperatore che io mi mischio in faccende estere che non mi riguardano? Vi sarei molto grato, eccellenza, se mi diceste chiaro e tondo quello che volete. Oh, mai così chiaro, disse calmo Talleyrand. Vorrei che riceveste questi signori e diceste loro alcune parole. Lascio a voi la scelta di queste parole. Chiedo troppo? Penso che non sappiate esattamente quel che chiedete, disse Gian Battista con voce sorda. Non l'avevo mai udito parlare così. Non vorrei che gli svedesi avessero l'impressione che l'imperatore ha, per così dire, ecco, temporaneamente silurato uno dei suoi più famosi marescialli. Ciò susciterebbe all'estero l'impressione di dissapori negli ambienti che più sono vicini all'imperatore. Vedete, il motivo della mia richiesta è molto semplice. Ah, troppo semplice, disse Gian Battista. Troppo semplice per un diplomatico come voi. E troppo complicato per un sergente come me. Crollò il capo. Non vi capisco, davvero non vi capisco, eccellenza. Così dicendo, gli posò pesantemente la mano sulla spalla. Volete farmi credere che un ex vescovo senta meno i suoi obblighi di quanto non li senta un ex insegnante di matematica? Talleyrand accennò con un'elegante movenza del bastone alla sua gamba anchilosata. Il paragone zoppica Pontecorvo proprio come me. Si tratta di vedere verso chi ci si sente obbligati. Allora Giambattista rise, liberamente e troppo rumorosamente per un principe. Era quello il ridere dei suoi giovani anni di soldato. Non ditemi che vi sentite obbligato verso di me, perché non lo credo. È naturale che non lo crediate. Consentitemi di pensare con una certa larghezza. Voi sapete che noi ex vescovi abbiamo avuto durante la rivoluzione parecchie difficoltà. A queste difficoltà, che erano pericolose per la vita, io mi sono sottratto con un viaggio in America e questo viaggio mi ha insegnato a pensare non soltanto ai singoli stati, ma ad interi continenti. Io mi sento obbligato verso tutto un continente e principalmente verso il nostro. Caro Pontecorvo, verso l'Europa in genere e naturalmente verso la Francia in specie. Vi bacio la mano, bella principessa. State bene, caro amico. È stata una conversazione molto interessante. Giambattista passò tutto il pomeriggio a cavallo, la sera fece il compito di aritmetica con Oscar e fece fare al povero bambino tante moltiplicazioni e addizioni finché gli si chiusero gli occhi. E io tentai di portare a letto il mio affaticato figliuolo, ma Oscar è cresciuto tanto che non riesco più a portarlo.